Oggi è uno sciopero per fermare il genocidio. Il mondo del lavoro con il cuore alla Palestina, ma con la testa qua per mettere fine all'economia di guerra che produce i genocidi e affama la popolazione e il mondo del lavoro. Quindi è uno sciopero che parla alla solidarietà, ma anche pone le priorità politiche e sociali del mondo del lavoro nello sviluppo economico. Non vogliamo la guerra, non saremo complici del genocidio, vogliamo un'economia sociale che restituisca progresso, quindi case, scuole, sanità, basta armi. Quindi è uno sciopero anche contro il Rearm Europe, contro l'aumento della spesa militare imposto dalla NATO. In tutta Italia vediamo che la risposta è stata forte, delle realtà politiche e sociali, sarà uno sciopero di massa senza precedenti, dove vediamo veramente pezzi del mondo del lavoro che vivono la precarietà, vivono la sofferenza, scendono oggi in piazza contro il genocidio per delle diverse politiche.